94, nato piangendo la vecchia maglia di mio fratello, ricorda l'odore di casa, il mio sorriso la sera quando mamma tornava. E più ci penso e più mi manca, quando correvo tra le sue braccia, mi fingevo pirata e astronauta mentre cantavo canzoni degli 883. Per qualche strano motivo credevo che in ogni disco la traccia numero 3 fosse la più bella, 3 come i sogni che ho dentro la testa. Ma in fondo è così, è sempre così. Non sempre c'è un senso, ti giri diverso, rimani te stesso. Na na na na na na na. È sempre così, quando tutto è perfetto ti senti diverso, ma sempre lo stesso ragazzo di anni fa. Bella Max. 33 un terzo, giri al minuto, quante puntine ho consumato a cercare una soluzione ai miei problemi e ai miei dubbi dentro ad una canzone. Ed ogni disco un nuovo viaggio che mi infondeva un po' di coraggio, e capivo di non essere solo e di essere solo un ragazzo della mia età. Per qualche strano motivo credevo che l'ultima traccia dei dischi fosse per me quella meno bella, ma adesso ascolto solo quella. Ma in fondo è così, è sempre così. Non sempre c'è un senso, ti giri diverso, rimani te stesso. Na na na na na na na. È sempre così, quando tutto è perfetto ti senti diverso, ma sempre lo stesso ragazzo di anni fa. Per qualche strano motivo io credo che l'ultima traccia del disco ancora non c'è. Se incontrerò una stella, le scriverò la canzone più bella. Bella! Ma in fondo è così, è sempre così. Non sempre c'è un senso, ti giri è diverso, rimani te stesso. Na na na na na na na. È sempre così, quando tutto è perfetto ti senti diverso, ma sempre lo stesso ragazzo di anni fa.